Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Non so dire se Sua Graziosa Maestà fosse molto colpito dalla scomparsa improvvisa di mio padre. Mia madre racconta che in quell'occasione fu versata qualche lacrima a regale. Ma non ci servirono a nulla quelle lacrime. Tutto ciò che si ritrovò in casa per la moglie e i creditori fu una borsa con 90 guinee, di cui naturalmente si appropriò mia madre, prendendo anche l'argenteria di famiglia e il guardaroba suo e di mio padre. Gettò tutto quanto nella nostra grande carrozza, corse fino a Holyhead e si imbarcò per l'Irlanda. Il corpo di mio padre ci seguiva tra le piume di struzzo del più bel carro funebre che si potesse affittare. Anche se marito e moglie in vita avevano litigato molto spesso, alla morte di lui la sua coraggiosa vedova, dimenticati tutti i contrasti, gli fece il più splendido funerale che si fosse visto da molto tempo a quella parte e sulle sue spoglie innalzò un monumento che poi dovetti pagare io, con un'iscrizione che lo dichiarava il più saggio, il più puro e il più affettuoso di tutti gli uomini. Nell'adempiere a questi tristi obblighi dovuti al suo defunto signore, la vedova spese quasi tutte le sue guinee, anzi, ne avrebbe spese molte di più se avesse rifuso anche solo un terzo dei costi delle esequie. Ma la gente della nostra vecchia casa di Berriog, per quanto non avesse simpatia per mio padre a causa della sua conversione, in queste circostanze gli fu fedele. Volevano addirittura trucidare gli inservienti inviati da Mr. Plummer di Londra ad accompagnare i resti del caro estinto. Il monumento e la cappella in chiesa erano purtroppo tutto ciò che rimaneva delle mie vaste proprietà. Mio padre aveva venduto ogni cosa, fino all'ultimo fuscello, a un certo Notley, un avvocato. Ricevemmo un'accoglienza ben fredda in casa sua, una squallida vecchia baracca, per dirla tutta. Quanto alla vedova Barry, lo splendore di quel funerale non mancò di consolidare la sua reputazione di donna di carattere e signora del bel mondo. Così, quando lei scrisse a suo fratello Michael Brady, quel degnissimo gentiluomo attraversò l'Irlanda al galoppo per gettarsi tra le braccia della sorella e invitarla a Castle Brady a nome di sua moglie. Mick e Barry avevano litigato, capita a tutti gli uomini. Tra di loro erano volate parole molto grosse all'epoca in cui Barry corteggiava Miss Bell e quando lui la rapì, Brady giurò che non avrebbe mai perdonato nessuno dei due. Ma poi, venuto a Londra nel 1946, aveva riallacciato i rapporti con Roaring Harry. Viveva nella sua elegante casa di Clergy Street. Aveva perso qualche sterlina al suo tavolo da gioco e in sua compagnia aveva rotto la testa a uno o due poliziotti. Tanti dolci ricordi che facevano sì che quell'uomo di buon cuore sentisse un grande affetto per Miss Bell e suo figlio. Ci accolse entrambi a braccia aperte e Mrs. Barry, forse a ragion veduta, non rivelò subito ai suoi amici in che condizioni si trovava. Arrivò dentro una colossale carrozza dorata con immensi stemmi gentilizi e sua cognata, come tutto il resto della contea, la prese per una persona molto benestante e molto distinta. Com'era ben giusto, per qualche tempo Mrs. Barry detto legge a Castle Brady. Dava ordini a destra e a manca, insegnando ai servitori un po' di finezza londinese, ne avevano gran bisogno. Redmond l'inglese, come mi chiamavano, veniva trattato come un piccolo lord, con una domestica e un lacchè tutti per lui, e il buon Mick pagava loro lo stipendio, cosa che non era solito fare nemmeno per i suoi stessi domestici, ma si sentiva tenuto a impegnarsi al massimo per dare un minimo di sollievo alla sua sventurata sorella. La mamma, in cambio, stabilì che, non appena sistemati i propri affari, avrebbe assegnato al suo caro fratello una generosa rendita per il mantenimento di lei e di suo figlio. Promise anche di farsi mandare da Clergy Street i suoi bei mobili per adornare un poco le miserevoli stanze di Castle Brady. Purtroppo saltò fuori che quel mascalzone del padrone di casa si era impadronito di tutte le sedie e i tavoli che di diritto spettavano alla vedova. La proprietà che avrei dovuto ereditare era nelle mani di rapaci creditori, come sola fonte di sussistenza, la vedova e il bimbo avevano il reddito di 50 sterline generato da un'ipoteca sulle proprietà di Milord Begwick, che aveva avuto molte transazioni con il defunto, generalmente all'ippodromo. E così la liberalità di mia madre verso suo fratello, naturalmente, non poté mai concretarsi. Bisogna confessare, benché questo vada grandemente a discredito di Mrs. Brady di Castle Brady, che quando la povertà di sua cognata venne alla luce del sole, nel modo che io ho detto, Mrs. Brady dimenticò tutto il rispetto che aveva sempre mostrato nei suoi confronti, cacciò subito via la mia domestica e il mio cameriere e disse a Mrs. Berry che se voleva poteva seguirli anche subito. La moglie di Mick era una donna di bassa estrazione, dedita ai calcoli più meschini. Perciò, dopo un paio d'anni in cui aveva risparmiato la maggior parte delle sue entrate, la vedova aderì al desiderio di Madame Brady. Al tempo stesso diede voce a un risentimento giusto, ma per lungo tempo prudentemente dissimulato, e giurò che non avrebbe mai più attraversato il cancello di Castle Brady finché tra quelle mura fosse rimasta viva la padrona di casa. Sistemò il nuovo alloggio con grande economia e considerevole gusto, e nonostante la sua povertà, mai venne meno di un solo dito alla dignità che le era dovuta e che tutto il vicinato le riconosceva. E come avrebbero potuto mancare di rispetto a una gentildonna che aveva vissuto a Londra, frequentando la migliore società, ed era stata persino, come lei dichiarava solennemente, presentata a corte? Questi punti a suo vantaggio le conferivano il diritto, che in Irlanda viene esercitato con regolarità spietata da chi lo possiede, di guardare dall'alto in basso chiunque non abbia avuto occasione di lasciare la madrepatria e vivere per qualche tempo in Inghilterra. Così ogni volta che Madame Brady appariva in pubblico con un vestito nuovo, sua cognata diceva: «Povera creatura, come ci si può aspettare che sappia cos'è la moda?» E se le faceva piacere che la chiamassero «la bella vedova», perché lo era davvero, era ancora più contenta di sentirsi chiamare «la vedova inglese». Mrs. Brady, per conto suo, aveva la risposta pronta. Ripeteva spesso che il defunto Barry era un fallito, un pezzente, e che quanto al bel mondo che frequentava, lo frequentava da dietro il tavolino da pranzo di Milord Begwig, del quale Barry era un notorio parassita e adulatore. Sul conto di Mrs. Barry, la signora di Castle Brady faceva insinuazioni ancora più sgradite. Ma perché dovremmo alludere a tali accuse o rivangare scandali privati che sono vecchi di quasi 60 anni? È nel regno di Giorgio II che i suddetti personaggi vissero e litigarono, buoni o cattivi, belli o brutti, ricchi o poveri. Ora sono tutti uguali. E poi, non ci pensano già i giornali della domenica e le sedute in tribunale a rifornirci ogni settimana di maldicenze più fresche e interessanti? Bisogna riconoscere che dopo la morte di suo marito e il suo ritiro a vita privata, mia madre visse in modo tale da sfidare ogni calunnia. Era stata la ragazza più allegra di tutta la contea di Wexford, con metà degli scapoli ai suoi piedi e sorrisi e incoraggiamento in abbondanza per ciascuno di loro. Mia madre adottò una riservatezza dignitosa, quasi boriosa. Era inamitata come una quacchera. Molti uomini che un tempo erano stati conquistati dalle grazie della ragazza da marito, ora rinnovarono le loro proposte di matrimonio alla vedova. Ma mia madre rifiutò tutte le offerte, dichiarando che ora viveva solamente per suo figlio e per la memoria del sant'uomo che l'aveva lasciata. «Un santo, come no!» diceva quella scorbutica di mia zia. «Harry Berry era il più gran peccatore che si sia mai visto, e tutti sanno che lui e Belle si detestavano. Se anche non si risposa subito, state pur certi che quella furbacchiona ha un marito sott'occhio. Aspetta solo che Lord Begwig rimanga vedovo». E se anche fosse stato così, non era abbastanza per qualunque Lord d'Inghilterra, la vedova di un Berry. E non s'era sempre detto che sarebbe stata una donna a risollevare le sorti della famiglia Berry. Se mia madre sognava di essere lei, quella donna, aveva tutte le ragioni per farlo, mi pare. E poi il conte di Begwig, mio padrino, era sempre pieno di attenzioni per lei. Non mi ero mai reso conto di quanto la mamma fosse presa da questo suo piano per migliorare la mia posizione, fino al matrimonio di sua signoria nel 57 con Miss Goldmore, ricca figlia del noto nababbo indiano. Intanto continuavamo a vivere a Berryville e, considerata l'esiguità dei nostri redditi, ce la cavavamo benissimo. Nella mezza dozzina di famiglie che formavano la congregazione religiosa di Bradystown non c'era nessuno che avesse l'aria tanto rispettabile quanto la vedova Berry, che, pur vestendo sempre a lutto in memoria del suo defunto marito, aveva ugualmente cura di indossare abiti in cui la sua bella persona desse il meglio di sé. Per 6 ore al giorno, credo, e ogni giorno della settimana, tagliava e guarniva e ritoccava i suoi vestiti perché fossero sempre alla moda. Aveva sempre la crinolina più ampia e il falpalà più elegante. Una volta al mese, da Londra, le veniva recapitata una busta con lo stemma di Milord Begwick, e dentro c'era una lettera con tutti i resoconti dell'ultima moda inglese. La sua carnagione era così tersa che non c'era alcun bisogno di imbellettarsi come si faceva allora. No, il rosso e il bianco, diceva lei, e da questo il lettore potrà giudicare quanto le due signore si odiassero, li lasciava a Madame Brady, con il suo colorito giallo che nessun trucco poteva alterare. In una parola, mia madre era di una bellezza così raffinata che tutte le donne del paese la prendevano a modello, e i giovanotti cavalcavano anche 10 miglia fino alla chiesa di Castle Brady solo per vederla un istante. Ma se era orgogliosa della propria bellezza, per renderle giustizia bisogna dire che era ancora più fiera di suo figlio. Mi ripeteva 1000 volte al giorno che ero il più bel ragazzo del mondo, questione di gusti. Però un uomo di 60 anni può parlare senza troppa vanità di come era quando ne aveva 14, e devo dire che c'era di che giustificare l'opinione di mia madre. La maggiore soddisfazione per quella santa donna era di vedermi vestito bene. La domenica e nei giorni di festa uscivo in giacca di velluto, con al fianco la spada dall'elsa d'argento e la giarrettiera d'oro al ginocchio. Ero distinto come un lord. Mia madre mi aveva fatto molti bellissimi panciotti, avevo un mare di merletti ai polsini e sui capelli sempre un nastro nuovo. Quando passeggiavamo verso la chiesa di domenica, perfino quell'invidiosa di Mrs. Brady doveva ammettere che non c'era coppia più elegante in tutto il regno. Ma poi la signora di Castle Brady sogghignava, come era inevitabile, a veder passare un certo Tim. Ufficialmente lui era il mio valletto. Seguiva me e mia madre sulla via della chiesa portando un enorme messale e un bastone. Indossava la livrea di uno dei nostri bravi servitori di Clergy Street e l'abito non gli stava a pennello. Tim era un ragazzetto con le gambe storte. Noi però, benché poveri, eravamo pur sempre di nobile famiglia. Nessun sogghigno poteva farci rinunciare agli accessori dovuti al nostro rango. Così avanzavamo nella navata fino al nostro banco, maestosi e solenni, come la moglie e il figlio del viceré d'Irlanda. Una volta là, mia madre pronunciava le risposte e gli amen ad alta voce, con un tono dignitoso che era un vero piacere a sentirlo. Aveva una bella voce forte, molto adatta per il canto. Si era perfezionata a Londra con l'aiuto di un maestro alla moda. Ora esercitava il suo talento con tanto entusiasmo che, se anche un'altra voce della piccola congregazione avesse osato unirsi al salmo, non la si sarebbe sentita comunque. Per dirla tutta, mia madre aveva grandissimi doni di ogni tipo e si riteneva una delle persone più belle, brave e benemerite che ci fossero al mondo. Parlava spessissimo a me e ai vicini della sua umiltà e della sua pietà, rendendole così evidenti che io avrei sfidato il più incredulo a smentirla. Lasciato Castle Brady, andammo a vivere a Bradystown, in una casa che la mamma battezzò Berryville. Devo riconoscere che era un appartamento molto piccolo. Noi comunque lo utilizzammo al meglio. Ho già ricordato l'albero genealogico appeso nel salotto che la mamma chiamava il salone giallo, mentre la mia stanza da letto si chiamava la camera rosa e la sua la suite bruno arancione. Come le ricordo bene tutte quante. All'ora di pranzo Tim puntualmente suonava una grossa campana, ciascuno di noi aveva una coppa d'argento per bere e mia madre era giustamente fiera che io avessi al mio fianco una bottiglia di chiaretto degna di qualsiasi altro nobile del luogo. Ed era vero, ma alla mia tenera età non mi era permesso bere quel vino, che giunse così a un'età considerevole senza mai muoversi dalla caraffa. Zio Brady scoprì questo particolare un giorno che, nonostante i disaccordi familiari, venne a farci visita a Berryville all'ora di pranzo ed ebbe la sfortuna di assaggiare quel liquore. Avreste dovuto vedere come quell'onest'uomo non faceva troppo il difficile riguardo al vino o alla compagnia con cui berlo. Si ubriacava addirittura con il pastore o col prete cattolico, senza preferenze. Quando mio zio beveva con il prete, mia madre si indignava. Da fanatica partigiana dei Nassau, disprezzava tutti i devoti della vecchia fede e non si sarebbe mai messa a tavola con un uomo ottenebrato dal papismo. Ma il buon gentiluomo non aveva di questi scrupoli. Era anzi uno degli individui più accomodanti, oziosi e di buon carattere che siano mai vissuti. Ne trascorreva di ore accanto alla vedova solitaria quando era stufo di Madame Brady. «Gli piacevo», diceva, «quanto un figlio suo». E alla fine, dopo che la vedova ebbe resistito per un paio d'anni, la convinse a lasciarmi tornare al castello, anche se lei era ben decisa a mantenere il giuramento che aveva fatto nei riguardi della cognata. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.